diretta, fredda appena cominciata. Io non sto per il lasso stasera, luci di Milano era la sua nuovo mix del millennio. Pronto se cerchi me, vuol dire che sai che solo io posso farti stare bene. Sì, con l'attitudine crea il movimento, un suono nuovo che parte da dentro. Se con istinto a muoversi, nuovo veicolo scivola lento, evolvendo. Sono l'invito legato all'it, ci corre dell'hip hop, disegno trame, perdeva le storie, mica impugna il tuo destino. Lasciati guidare, lascia fare me, coinvolgo te, dimmi se ne so, baby. Se ti sfatto rimborsato, suona dopo il mio flow. Scivola la sera, atmosfera, luce soffusa sul palco pronto. Mi prendo in mano, re del mio suono come un re del suo popolo. Dal 9-9 impresso, marchio della family in Ness. Festa in stato d'apprendimento, puntando sempre alla vetta. Come Orcas, one for the money, two for the show. Yo, one for me and the rest of the family. E sono caldo, unico credo, sono stesso. Unico compromesso per il successo. Messo come sono, punto in alto, dal palco ti sta sotto. Questo è solo inizio, impresa diretta come la tua vita. Partita appena cominciata, sfida infinita. Tra me e le trame che so disegnare, arte del rimare, rimane di vario. Foto sul tuo diario, baby. Questo è solo inizio, Xu. Presa diretta, il demo.